realtà. Per lui non c'è rispetto, c'è solo indifferenza, emarginazione. Dicono che è pazzo Pinocchio, maniacale così, dicono di lui. Ma si sa il siculianese che è poco cortese e poco socievole. A sfruttare quel po' che lui ha, ma lui è felice così perché almeno si sente vivo. Purtroppo il suo caso non è isolato, perché ce ne sono tanti condannati socialmente senza avere fatto niente da questa comunità deficiente. Whisky free, whisky free. Whisky più rock, whisky più rock, whisky più rock. A tutti quanti whisky più, whisky più. Tutti quanti whisky più rock. Whisky più, whisky più, whisky più rock, whisky più rock, whisky più rock. Per tutti quanti whisky più rock. Io sono io. A tutti quanti whisky più rock. Questa comunità non mi merita, non mi merita, perché voi vi vantate di essere bella gente calorosa.